quelli degli apparecchi nuovi, monta il finale audio, quello che montava una volta lo stereo della... da quello che altro si chiama, se non mi mette il nome. Dunque sono i finali audio che montavano gli stereo di una volta, c'erano cinque piedini, tre dietro e due davanti, capito? Solo che a volte si dimenticano dalla fabbrica di metterci l'isolatore nella vite, capito? E quindi tu quando vai accendendo succede come è successo a Corso, a Gio Maria, che come l'ha acceso è andato in corto, hai capito? E mancava l'isolatore, mancava. Sono capace che sia anche salvato quel finale. E a trovarlo era un casino, sono riuscito a trovarlo io in uno di quei portatili, uno dei due con 40S, perché montava gli stessi finali di audio. E infatti gliel'ho messo, un TDA 2003 in pratica monta. Ciao. Poi una volta montato va ritirato il finale, vero? Io ho visto che dal manuale di servizio di... dei vari apparati dice che una volta cambiato vanno ritirate le tensioni o quello che è. Devi controllare cosa arriva a un piedino, cosa esce dall'altro, insomma, io non ne tratto di questa roba, tu lo saprai sicuramente. E ci sono dei trimmer in pratica che bisogna controllare, ce ne sono. In pratica è la tensione d'ingresso e la tensione d'uscita del finale stesso. Ma di subito come cioè come togli uno ci metti l'altro va bene, hai capito? Se è originale, se dovesse essere un altro, capito? Un altro tipo allora vuole fare la regolazione, solo lì e basta. Capito? Bene, bene, bene. Appo compreso. Vediamo se è raffreddato, io adesso do da mangiare a mamma e mangio qualcosa anch'io. Poi se ci sei dopo, vediamo, dai. Che tanto dopo mangiato mi verrà un po' di sonno, mi faccio un po' di un'oretta di penichella, capito? E fai bene, fai bene. Adesso vedo un po' di organizzarmi lunedì. Prendevi una posso pipa, una carta così, me la carico e mi fa, vedo di amipizzi, poi bisogna vedere come tanto funziona perché non lo so. Se devo dare i codici IBA, se devo dare i numeri che sono da, fuori, a questi qua quando non dico qualcosa, boh. Allora, guarda, la mia, per quanto sia semplice, senza costi, è come avere un conto quasi. Cioè, puoi inviare i soldi anche con bonifico, puoi ricevere i soldi anche con bonifico. Hai un codice IBAN che ti viene comunicato quando ti arriva la carta. E puoi fare tante cose, è comodo. Soprattutto per comprare roba online, io non metterei mai la carta di credito di casa, quella di mamma, che è collegata al vero conto bancario. Se te la careggiano, guai, cioè, trovi il vuoto, ti spazzolano via tutto. Invece quella è una prepagata, io se so che adesso di dover spendere 100 euro, ci metto 100 euro, anche se dovesse essere un sito truffa o... non lo so, guarda, ci sono tante di quelle tecniche per imbrogliare la gente online che non te ne rendi conto. Una giungla è diventata internet. Beh, è un grido adesso. C'è anche quello che ti fa doppione, addirittura, capito? E poi si ordina quello che vuole lui. E bisogna stare attenti alle strisciate, le cosiddette strisciate. Basta che uno nella tasca abbia una certa cosa. Oddio, non è così semplice. Vabbè, no, può essere anche semplice. Te la clona, tutto si può fare, è una cosa allucinante. Allucinante. Prima sono uscito io verso l'una a fare la spesa. Prima non ce l'ho fatta. sono uscito in moto naturalmente, un caldo, mamma mia. Cioè, finché sei in movimento, sai, ho tolto il parabrezza, bene o male l'aria alla senti, appena ti fermi un semaforo, mamma di turchi, per carità. Ho già le tasche piene dell'estate. Oh, guarda, sono di là a me quando sono uscito di scooter, appunto ho fatto un tipo, si è appoggiato alla moto e ha cominciato a parlare. Più di tre quarti d'ora, che bella che questa cosa per anziani, tu sì, per anziani, c'è un bel sedile, eccetera, eccetera. Quanto durano le batterie, eccetera, mi ha fatto due coglioni così, cazzo. Ho caldo, io ti ascolto e ho detto devo andare, che sono detto me, la birra mi si fa bollente come cosa, come il piscio, gli ho detto. E a parte c'era anche il formaggio, è arrivato mezzo asciutto, è arrivato. C'erano 35 gradi, c'era. E infatti la moto è andata in tilt, il quadro, come ha preso calore, la potenza maletta se ne è scesa al minimo, capito? Quindi sto salendo piano piano, dalla capata c'erano i carabinieri, mi ha visto salendo piano, aiuto, cazzo, se si ferma questi cazzo si avvicinano, c'è buona un po' di coglioni, invece ho visto che erano parcheggiati, era di sabato, come oggi, parcheggiati perché dovevano giocare, non so se la Dinamo, cosa doveva giocare, erano lì aspettando all'ombra, anche aspettare qualcuno, perché di solito si mettono di fronte allo spino la pattuglia e dall'altra parte dove c'è quello che vende i panini c'è l'altra pattuglia, capito? Sì, vabbè, che se ci sono le partite, se sono di servizio lì devono controllare solo che non ci siano disordini tipo tifoseria che fa casino, a meno che non faccia una cosa clamorosa che proprio ti devono fermare. Sì, vabbè, scusate, come quello che ho io, ce ne sono pochi in giro mio, ce n'è anzi qualcuno in giro, la verità, sì. L'ho preso solo esclusivamente per farmi la spesa, però per andare cazzo, a fare la spesa, o prima di pranzo, dopo pranzo, da morire ce n'è, cazzo. C'è le scarpe, quelle in pelle, bollenti, cazzo. Capito? E quindi sono salito piano piano, c'era appena di aria calda, c'era, capito? Poi quando la temperatura è così alta non fa manco a berti un bicchiere di birra, adesso ci rimani secco, come fanno al bar, ti mettono la birra ghiacciata, capito? Come tu esci da dentro a fuori, sei già pronto, ma senza manco berti 5 o 6. Va bene, Antonio, io per adesso ti saluto e ci sentiamo quando capita. Certo, mi piacerebbe, guarda, settimana prossima dovrebbero calare le temperature, da lunedì dovrebbe scendere tipo 26-27 gradi, intorno ai 27 dai, per alcuni giorni. Se riesco, al limite a portare il computer, non so se ce l'abbia tu il computer, o si può fare anche dal cellulare, però basta che sia un cellulare minimamente protetto, Antone, perché molta gente non mette antivirus, non mette niente, non fa aggiornamenti di sicurezza, non fa niente, poi li clonano magari davvero la carta e poi piangono. No, il mio è tutto aggiornato, blindato, antivirus a pagamento, capito? Non si scherza con i soldi, con i conti correnti e balle varie. No, il mio non è bloccato, cioè no, non gli ho fatto nessuna cosa al mio telefonino. Chiunque può entrare, capito? Poi ne ho cambiato 4 di quei telefonini lì. Figurati, io venevo, cioè lavorato a Giampiero, io volevo tutto quello che scriveva lui e gli ho detto, cazzo via, l'account mio preciso niente cosa fare. Mi ha fatto un po' di telefonate, cazzo. Ha telefonato ai carabinieri, alla polizia, al Guardia di Finanza, ha contato un po' di coglionate, cazzo. Io me ne sono accorto perché ho visto questi messaggi arrivando. E ho detto, cazzo, ho scritto. E ho detto, ho scritto poca roba. Gli ho detto, no. Allora sono andato da Nicco e gli ho detto cancellami tutto, ho detto perché cazzo, ho detto l'account che c'era, questa qui non va bene, ho detto fammelo nuovo e me l'avevo fatto nuovo. in quello celeste che ho e anche nell'altro, solo l'account. Poi resta la roba, non ho messo niente perché non c'ho carte di credito, non c'ho nulla, quindi c'è un poco da rubare, capito? Ehi, va bene, ok, dai, ci sentiamo Antone, buon proseguimento di serata. Io d'accordo, ok, ci sentiamo, ciao, stavi bene, buona bagnata. Grazie, grazie. Di niente, di niente.